Terra in vista. L'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici. Terra in vista è quello che gridiamo qui a Radio 24 in questo viaggio che ci accompagna alla scoperta dell'Expo e cerchiamo di spiegare i temi più belli, più interessanti, più pregnanti legati all'Expo ai più piccoli. Io sono Federico Taddia e il mio compagno di viaggio e anche in verità la mia guida è Telmo Pievani. Ciao Telmo. Ciao Fede, eccoci. Filosofo della scienza qua con noi per aiutarci appunto a dare le giuste definizioni alle parole che abbiamo scelto. Ogni puntata una parola e questa parola cerchiamo di narrarla attraverso le domande poste dai bambini. Oggi parliamo dell'acqua, che è una parola importante, fondamentale direi. Eh sì, l'elemento da cui tutto cominciò. Che cos'è l'acqua? Lo abbiamo chiesto appunto ai più piccoli. Yuhu! L'acqua per me è una cosa molto importante che serve sempre, se no sei fregato. L'acqua è una proteina sempre come il cibo per bere e ci fa bene anche questa alla salute. L'acqua è un regno prezioso perché non è per tutti i bambini, infatti certi bambini poveri la prendono dal pozzo. È un liquido. L'acqua del mare. L'acqua non si deve sprecare perché è una fonte preziosa. Circa l'80% del nostro corpo è fatto di acqua. Per arrivare nei nostri rubinetti fa il ciclo dell'acqua e magari la gocciolina che hai trovato 2 anni fa la puoi ritrovare 10 anni dopo ed è sempre quella. Poi l'acqua si deve bere anche perché ripulisce il nostro organismo. L'acqua è come il cibo, è un alimento che serve per vivere. E se tu non la bevi poi ti disidrati. È un liquido che noi beviamo, che è naturale e può essere anche frizzante. L'acqua, quella gocciolina, vero che per anni torna e ritorna e ritorna ancora. E può essere anche frizzante. E può essere anche frizzante. Allora, questa è l'acqua secondo i nostri giovani ascoltatori. E Telmo, invece, diamo una giusta definizione del termine acqua. L'acqua è l'elemento essenziale per la vita e possiamo darne tantissime definizioni scientifiche, filosofiche anche. Pensa, la filosofia occidentale, la nostra, in fondo è nata con l'acqua. Il primo filosofo tanto tempo fa in Grecia diceva, Talete, che l'acqua è l'elemento da cui tutto è cominciato. I greci erano convinti di essere su una terra, nella loro terra, tutta circondata dall'acqua, dall'oceano. Quindi l'acqua era il principio di inizio di tutto, della natura, ma anche lo sconosciuto, tutto ciò che è attorno a noi di ignoto. Quindi l'acqua ha tantissimi significati. Gli astrofisici di oggi, quando guardano i pianeti fuori, là lontanissimo, la prima cosa che cercano di capire è se dentro c'è dell'acqua, perché vuol dire che forse può esserci anche la vita. Quindi acqua e vita sono strettamente legate. Perché la vita nasce lì, nasce nell'acqua? Esattamente. E la nostra Terra è particolarissima perché ha delle condizioni tali per cui l'acqua può stare allo stato liquido principalmente, muoversi sulla superficie, ma anche essere ghiacciata e anche essere allo stato gassoso. Tutta la vita è cominciata dentro l'acqua, 3,75 miliardi di anni fa, tantissimo tempo fa, appena la Terra si è riempita proprio di acqua in quel famoso oceano primordiale, quella che Darwin chiamava quella pozzanghera dove tutto cominciò. Ma anche noi, perché noi siamo degli organismi più complessi, abbiamo tante cellule diverse, anche gli organismi con tante cellule pluricellulari sono nati circa 550 milioni di anni fa, sempre in acqua. Quindi potremmo dire che gran parte della storia della vita si è svolta tutta dentro l'acqua. E poi l'acqua, l'abbiamo sentito anche dai piccoli ascoltatori, l'acqua riporta subito al concetto di bene prezioso, di qualcosa comunque che non deve andare sprecato. Esattamente, perché è finita, c'è dappertutto, però è finita. E pensa che l'acqua noi abbiamo imparato a definirla chimicamente soltanto nel 1860, la famosa formula che sappiamo tutti, H2O. Quindi non è poi da tanto tempo che ci abbiamo guardato dentro. E poi l'acqua ha dentro di sé un paradosso incredibile: il 70% della superficie della Terra è ricoperta di acqua, eppure tantissimi nostri simili, tantissimi esseri umani non hanno l'acqua corrente in casa. Come mai? E oggi cercheremo di capirlo. Questo è Terra in vista. Adesso una filastrocca, il traffico e poi riprende il nostro viaggio. Acqua. Acqua qua, acqua là. Giù fresca da sorgente, giù fresca dal bicchiere, acqua che è un piacere. Acqua su, acqua giù, scivola nella bocca, scivola nella gola, acqua che ci consola. Acqua qua, acqua là, toglie la dura sete, toglie la voglia asciutta, acqua che scende tutta. Acqua su, acqua giù, che scioglie il sale scende, che scioglie il secco cuore, acqua che frutta il fiore. Terra in vista. Andiamo quindi alla scoperta dell'acqua e lo facciamo con le domande dei giovanissimi ascoltatori. Questa è la prima domanda. Potrebbe un giorno finire l'acqua sulla terra? In effetti è vero, no? Cioè, ti dicono sempre non sprecarla, che non ce n'è abbastanza, che poi sì. Finisce. Uno dice, vabbè, ma può davvero finire? Sì, ma se finisce poi dove va a finire? Serve la risposta, serve l'esperto e l'abbiamo convocato. L'esperto è lei, Elisa Palazzi, ricercatrice presso l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Torino e docente di Fisica del Clima presso l'Università di Torino. Ciao Elisa, benvenuta a Terra in Vista. Ciao. Ciao, grazie. Bella domanda, eh? Quest'acqua, e ce n'è tanta sulla Terra, potrebbe un giorno esaurirsi? Direi che l'acqua sulla Terra non potrebbe esaurirsi o finire, semplicemente perché l'acqua circola continuamente sulla Terra, costituisce quello che viene definito proprio il ciclo dell'acqua, cambiando continuamente la sua forma, il suo stato fisico di aggregazione, quindi la possiamo ritrovare allo stato liquido, negli oceani, nei mari, nei corsi d'acqua o anche in cielo, nelle nuvole. La ritroviamo come vapore nell'atmosfera, dove si forma in seguito all'evaporazione dei mari o alla traspirazione delle piante, e poi la possiamo trovare anche sotto forma di ghiaccio, per esempio nei ghiacciai montani o marini. Quindi no, direi che l'acqua, proprio perché fa parte di questo ciclo continuo, non va ad esaurirsi, però può cambiare nel tempo la sua distribuzione geografica, il suo stato fisico prevalente ed anche la sua qualità, certamente. Uh-huh. Insomma, dei cambiamenti importanti, quindi se c'è un tubo rotto e si dice quel tubo perde acqua, c'è il verbo perdere, sì, in quel caso è corretto, però non è acqua che perdiamo per sempre, è acqua che poi ritornerà in un qualche stato. Quindi, ricircola. Ricircola, sì. Quindi insomma possiamo essere tranquilli o comunque questi cambiamenti di stato possono diventare diversi, quindi possiamo comunque avere dei problemi? Potrebbero esserci, sì, alcuni di questi problemi, per esempio in risposta al cambiamento globale, al riscaldamento globale, già li abbiamo un po' osservati. Per esempio potremmo avere in futuro più acqua che cade in forma liquida, quindi come precipitazione anche intensa, piuttosto che come forma solida, quindi diciamo meno apporto ai ghiacciai. I ghiacciai per l'appunto potrebbero ad esempio fondere prima, andando quindi a cambiare anche la tempistica con cui noi siamo abituati a utilizzare per esempio l'acqua di fusione dei ghiacciai per soddisfare i nostri fabbisogni come società e anche per gli ecosistemi stessi. Quindi forse più che della quantità dobbiamo preoccuparci della qualità per noi dell'acqua, no? Di quanta acqua è buona per noi. Certamente, infatti l'acqua è un bene preziosissimo, ma deve essere anche un'acqua di buona qualità per poter essere utilizzata. Ed oggi ci sono diversi fattori che possono mettere a rischio la qualità dell'acqua, per lo più legati allo sviluppo, che ovviamente è inevitabile, e questi fattori sono primo fra tutti probabilmente l'inquinamento dell'aria, l'inquinamento del suolo, che può anche arrivare a impattare per esempio le falde acquifere, che rappresentano un'importantissima sorgente di acqua da estrarre. Lo sviluppo in generale, tutti questi stress possono essere intensificati dalle variazioni climatiche che vanno ad agire proprio su diversi elementi del ciclo dell'acqua. Prima un bambino diceva che il ciclo dell'acqua è quella cosa che ti permette di ritrovare quella stessa gocciolina dopo diversi anni. Ti è mai capitato di ritrovare quella gocciolina? Ovvero, ci pensi mai che quando sei lì, magari in un ghiacciaio, tu li studi proprio andandoci, anche vivendo sui ghiacciai, ci pensi mai che quella gocciolina magari l'hai già incontrata nella tua vita? Ogni tanto ci penso, è carina questa storia della vita della goccia di acqua, e ci penso anche nel senso che, per quello che studio, il fatto che sulla Terra esistano queste tre fasi dell'acqua, solida, liquida e gassosa, è proprio una specificità del nostro pianeta che lo distingue un po' rispetto agli altri con atmosfera, il fatto che siamo prossimi a quello che viene definito proprio il punto triplo dell'acqua, dove le tre fasi coesistono, ed è quello che permette al ciclo dell'acqua proprio di esistere. Grazie davvero ad Elisa Palazzi, ciao e buon lavoro. Grazie, altrettanto, buona continuazione. Ciao. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Stati Uniti. Il vasto territorio degli Stati Uniti è caratterizzato dalla presenza di un gran numero di differenti cucine regionali. Ad esempio, vi è la cucina regionale dell'area del Pacifico, risultato di influenze asiatiche, mediterranee e messicane, che sfrutta al massimo le abbondanti risorse di pesce, frutta e verdura e gode di una prospera industria vinicola. Questa regione è diversificata e va dalle Hawaii con i loro cibi tropicali all'Alaska, famosa per il suo salmone. La regione del West, invece, è più conosciuta per la selvaggina, il manzo, il pesce d'acqua dolce e, naturalmente, la carne di bisonte. Questi sono i nostri Expo Pub, tante curiosità direttamente da Expo, ma torniamo all'acqua, torniamo a questa parola paura, no? C'è il timore che l'acqua possa finire, abbiamo scoperto che sì, il nostro pianeta in questo è ben organizzato, quindi possiamo stare tranquilli anche se dobbiamo avere stili di vita adeguati, ma l'uomo o gli animali o le piante come reagiscono a questa paura, Telmo? Le piante, gli animali, noi compresi, abbiamo sviluppato un sacco di strategie basate proprio sul fatto che abbiamo paura che l'acqua a un certo punto finisca, perché il paradosso dell'acqua l'abbiamo sentito adesso, no? È un ciclo continuo, è un flusso di trasformazione, solo che l'acqua non è distribuita nello stesso modo in tutte le parti del pianeta. Allora ci sono piante che hanno fatto cose fantastiche, non so, il baobab africano per esempio ha questo tronco enorme alto 10 metri dentro il quale conserva l'acqua, gli animali lo hanno imparato, allora abbiamo visto per esempio elefanti che cercano di rompere il tronco e vanno a bere l'acqua, a succhiare l'acqua che c'è dentro. Ci sono piante, per esempio c'è una pianta in Argentina che si chiama pianta ubriaca perché ha imparato a immagazzinare l'acqua in fondo in una sorta di anfora ed è proprio riempita di acqua e gli animali pure lì cercano di rubargliela. In Messico c'è un'altra meravigliosa che è la pianta della resurrezione che invece ha trovato un'altra strategia. Quando non c'è l'acqua va in una sorta di riposo assoluto, si rattrappisce tutta, appena c'è un pochino di acqua fiorisce, si sviluppa e ha una sorta di resurrezione. Gli esseri umani pure hanno sempre avuto questa paura perché le prime civiltà si sono sempre sviluppate attorno all'acqua, attorno ai fiumi, ma anche al mare, quindi perché il mare poi è il luogo dello scambio, delle comunicazioni. In particolare noi tutti sappiamo gli antichi egizi sono una civiltà nata attraverso il rapporto con un fiume capriccioso, come lo definivano loro, perché le piene del Nilo una volta, adesso no, non erano regolamentate da grandi dighe e quindi potevano essere buone o molto cattive, e questo è tipico dell'ambivalenza della natura. Loro sapevano, tre giorni dopo il solstizio d'estate arrivava la stella Sirio che si presentava, voleva dire che stava per arrivare la piena del Nilo, e quello era un momento fondamentale perché voleva dire che i loro campi potevano essere di nuovo resi fertili, ma sapevano anche che se era troppo violenta si portava via tutto. Forse questo è uno dei motivi per cui noi abbiamo imparato a pensare che la natura sia un dio capriccioso. Questi sono i racconti, bellissimi racconti di Telmo Piovani. Adesso è il momento di giocare con Expo Kids. Expo Kids. Dire, fare, giocare. Dire, fare, giocare con l'acqua, ma ovviamente in chiave artistica, sono le attività proposte da Alessandra Falconi, collaboratrice del blog disegnangolo.it e atelierista del metodo Bruno Munari. Ciao Alessandra, ben ritrovata. Buongiorno a tutti voi. Eccoci. Allora, creatività ed acqua, cosa ci suggerisci? Direi di lavorare con le bolle di sapone. Belle, belle. Perché sono amatissime dai bambini, d'estate fa sempre piacere trovare una scusa per bagnarsi un po', ed è un modo di giocare con l'acqua che non viene immediatamente in mente. Compro le banalissime bolle da 80 centesimi, 1,50 euro a seconda della città in cui vivo. metto dentro pochissima tempera, e qui mi raccomando bambini, dosiamola, perché chiaramente poi il liquido deve rimanere leggero per poter volare. Ma quindi poche gocce proprio? Cioè... Sì, sì, sì, sbatto appena proprio per riuscire a colorare il liquido in modo che da trasparente possa diventare rosso, blu o verde. Se uso colori forti, scuri, è più bello poi l'effetto che ottengo sul foglio, perché anziché fare le bolle di sapone nell'aria, utilizzo un foglio, una 4, quelli appunto per la stampante e per la fotocopiatrice, e soffio le mie bolle sul foglio. Quando la bolla arriva, esplode e lascerà la sua magia di essere stata una bolla con forme circolari e non solo, intere e anche no, sul mio foglio, e quindi una volta che poi queste bolle si sono asciugate posso guardarle e disegnare immaginando quello che loro stanno lì a raccontarmi. Fantastico. Quindi tutto ciò in giardino, giusto? Questo è il papà che parla. Esatto, sì, fermo. Hai ragione, penso. Per fortuna in radio non si vede che faccia ho, così non troverò genitori che sul treno diranno è lei. Quindi la sorpresa della bolla che si compone e poi l'imprevedibilità della bolla che scoppia e lascia questa macchia, questa opera artistica sul foglio. Beh, esatto. Insomma, ottimo spunto. Anche perché, Federico, immaginatelo anche con più bambini insieme, quindi esco dal foglio A4 e prendo un bel foglio di carta da pacco per un bel compleanno, prendo 10 bolle e questi bambini con 10 colori diversi che a mano giocano insieme componendo un'opera con tutti questi colori di bolle mescolate fra di loro. Fantastico. Alessandra, di solito hai una citazione con cui chiudere l'intervento, oggi cosa hai preparato? Oggi il Piccolo Principe, perché questa volta veniva proprio perfettamente. Perché c'è un dialogo fra il piccolo principe e un mercante che ha trovato il modo di risolvere il bisogno di bere. Perché non so se Telmo, Federico, sapete che bere ci comporta una perdita di tempo di 53 minuti alla settimana. E quindi il piccolo principe ascolta questa spiegazione e giustamente domanda: ma e che te ne fai di questi 53 minuti? E il mercante gli dice: puoi fare quello che ti pare. E il piccolo principe risponde: io, se avessi 53 minuti da spendere, camminerei adagio verso una fontana. Magari ascoltando Terra in Vista, che la durata più o meno è quella. Grazie Alessandra, tutto ciò grazie lo potete ritrovare su disegnangolo.it con tutte le dritte, le citazioni, consigli pedagogici molto belli e molto attuali. Ciao al prossimo Expo Kids. Ciao. Adesso una filastrocca, la pubblicità, poi ancora Terra in Vista. Acqua, acqua fresca che saltelli canticchiando sopra i massi, ti salutano gli alberelli ristorati quando passi e son liete le erbe e i fiori di specchiarsi nel tuo seno, mentre in alto ti sorride il bel ciel, terso e sereno. Terra in Vista. Eccoci qua ancora con Terra in Vista, l'Expo, spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici, quindi a grandi e piccoli. Io sono Federico Taddia, con me c'è Telmo Pievani. Oggi tentiamo di spiegare cosa sia l'acqua. Ho ancora in mente le risposte che hanno dato i bambini a inizio puntata, che no? Una particella, un alimento, un liquido. È naturale o è frizzante? Questo è bellissimo. E qualcuno ha detto che siamo fatti in gran parte di acqua. E infatti la domanda con cui riapriamo la puntata ci porta proprio in quella direzione. Ascoltatela un po'. È vero che il nostro corpo è fatto d'acqua? Il nostro corpo è davvero fatto di acqua? Questa è la domanda, e per la risposta abbiamo convocato il dottore Alessandro Zanasi, che è medico, idrologo, direttore del Museo Nazionale delle Acque Minerali di Crodo. Ciao Alessandro, benvenuto a Terra in Vista. Ciao. Allora, questo nostro corpo è davvero fatto di acqua? Il nostro corpo è fatto prevalentemente d'acqua. Diciamo che nell'adulto abbiamo il 65-70% di acqua, mentre nel bambino questa percentuale è ancora maggiore, perché arriviamo attorno a un 80%, se poi andiamo nel feto si arriva attorno al 90%, quindi siamo veramente fatti d'acqua. Ma quindi quando abbiamo sete, quando sentiamo bisogno di bere, è perché stiamo perdendo acqua del nostro corpo e quindi questa percentuale sta calando? certamente. La sete è un campanello d'allarme. La sete si dice che noi siamo in riserva d'acqua, non siamo ancora entrati in disidratazione, però uno 0,5% di acqua in meno fa scattare questo meccanismo e noi dobbiamo cominciare a bere per ripristinare quello che è la quota normale di acqua nel nostro corpo. Se qui ci fosse un bambino, credo che la domanda che farebbe potrebbe essere: ma quindi se c'è tanto sole rischiamo di evaporare anche noi come persone? Certamente, infatti dobbiamo bere di più. Quando è caldo, quando sudiamo, noi dobbiamo bere più acqua perché la perdiamo. L'acqua che introduciamo deve essere esattamente uguale a quella che perdiamo. Tanta acqua entra, tanta acqua esce. Dobbiamo mantenere un equilibrio perché tutte le funzioni del nostro organismo funzionino poi bene. Sappiamo che l'acqua permette di portare, di trasportare i nutrienti, ci consente di far funzionare bene tutte le reazioni metaboliche, regola la temperatura dell'organismo, poi permette di eliminare le scorie tossiche del nostro organismo, quindi l'acqua ha una funzione importantissima. Ma è vero che a volte tu ti stai magari disidratando e non te ne accorgi, e non provi davvero sete, e allora bisogna trovare degli indizi per capire che devi bere, no? Diciamo che ci sono dei sensori che ci permettono di far scattare questo meccanismo. Nel bambino e nell'anziano questi sensori sono un po' meno sensibili e quindi ecco che ce ne accorgiamo magari quando la disidratazione è già cominciata e quindi l'inizio può essere un pochino di stanchezza, la bocca secca, tutte cose che magari noi avvertiamo come disagio, ma che invece sono sempre dei segnali che ci dicono: attenzione, sta calando la quota di acqua che hai nel corpo. Alessandro, un'ultima domanda. Tu sei direttore del Museo Nazionale delle Acque Minerali. Questo significa, sì, che le acque sono diverse tra di loro? Allora, non c'è un'acqua identica all'altra, perché l'acqua non è altro che l'espressione del terreno che attraversa e quindi è un po' un'impronta digitale. Se noi andiamo a vedere tutte le bottiglie che troviamo in commercio, hanno un'etichetta, non troveremo un'acqua che ha la stessa composizione, magari qualcuna simile all'altra, ma però i sali che sono disciolti sono diversi e quindi le caratterizzano. È una cosa abbastanza complessa che andrebbe studiata. Il museo proprio è diretto anche ai ragazzi per dare delle informazioni su quello che è un mondo che è il più sconosciuto. Diamo il sito, che è museonazionaleacqueminerali.it. Un grazie ad Alessandro Zanasi, buon terra in vista. Ciao, saluto a tutti. Grazie. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Polonia. La Polonia è famosa per le sue zuppe aromatiche. Tra queste la più gustosa è quella di funghi, lo Żurek, che è una speciale minestra a base di lievito di segale acido con aggiunta di salsiccia. Durante i pranzi domenicali si mangiano i cappellini fatti a mano, in brodo di manzo e di pollo. Oltre ai cappellini, la Polonia conta anche decine di varietà di pierogi, che sono delle specie di ravioloni con funghi e cavoli, con formaggio bianco, con patate o carne. In estate sono farciti con lamponi, mirtilli e fragole. E dai nostri Expo Pub torniamo all'acqua. Telmo, è vero che abbiamo imparato a domesticare l'acqua? Beh sì, pensa, abbiamo appena scoperto adesso che esiste una biodiversità dell'acqua. Questo mi ha colpito molto. Non c'è un'acqua uguale a un'altra. Questo vale esattamente come per gli organismi viventi, quindi ognuno con la sua acqua. Questa è una vecchissima storia, perché le popolazioni umane hanno sempre cercato di capire la diversità dell'acqua, di interpretarla, di prevederla e anche, potremmo dire, di addomesticarla. Senti questo: al suo palazzo egli fece ammassare pietre su pietre fino a ottenere l'aspetto di vere montagne, vi piantò ogni genere di alberi, allestendo il cosiddetto paradiso pensile. Questo è un resoconto di quello che Nabucodonosor II fece a Babilonia, i famosi giardini pensili, che era una delle meraviglie del mondo ed era una meraviglia di ingegneria, perché con questi terrazzamenti col fondo impermeabile riuscivano a fare crescere a qualsiasi altitudine pini, cipressi, palme, melograni, ninfe, una meraviglia. E questa è una storia che poi è andata avanti con i terrazzamenti, con le risaie che a volte sono bellissime e che oggi ci danno questo effetto straniante. Noi vediamo dei paesaggi attorno a noi che proprio grazie all'acqua ci sembrano naturali, a come l'acqua viene distribuita. In realtà sono il frutto di un lunghissimo lavoro culturale di rapporto tra l'uomo e l'ambiente. quello che sta succedendo oggi è che forse un po' di questa storia la stiamo perdendo, perché cerchiamo ancora di irreggimentare l'acqua con le dighe, con i canali, ma questa a volte si ribella. Noi abbiamo visto recentemente gli tsunami, le inondazioni. L'acqua, anche se non sembra, quando si ribella è di una violenza impareggiabile, proprio non riesci più a fermarla, va dappertutto, fa quello che vuole. E noi però dovremmo essere così saggi da riuscire a prevedere questo. Per esempio, se noi sappiamo che sulle montagne, sulle colline non lasciamo gli alberi come devono essere, non curiamo i terrazzamenti come dobbiamo fare, quest'acqua non viene filtrata, e quindi a un certo punto, quando hai le cosiddette bombe d'acqua, queste vanno a incanalarsi e fanno dei disastri. Noi oggi abbiamo tutti gli strumenti per prevedere questo, ma chissà perché non lo facciamo. Questa è l'acqua, ed è proprio lei anche la grande protagonista di Expo Kids di oggi. Expo Kids, dire, fare, giocare. Eh sì, è il momento di Andrea Vico e i suoi esperimenti. Andrea Vico, giornalista scientifico di Two Science. Vi ricordo www.twoscience.it, il sito di questa associazione che ha proprio della divulgazione scientifica il suo cuore. Ciao Andrea. Ciao a tutti, ciao Telmo e buongiorno Federico. Beh, insomma, l'acqua è un bel ingrediente con il quale divertirsi scientificamente. Assolutamente, poi ci sono mille esperimenti sull'acqua, con l'acqua, da fare d'estate, al mare, in montagna, però oggi vi chiederò, anche per capire un po' meglio come noi usiamo l'acqua e a volte la sprechiamo un po', di stare in bagno, quindi faremo esperimenti da bagno. Ah, attenzione, siamo pronti da... Allora, innanzitutto, come sempre, coinvolgiamo tutta la famiglia, quindi cerchiamo di essere tutti insieme, andare nel bagno principale di casa, e ci saranno tre esperimenti da fare. Sì? E faccio il piccolo sommario per titoli: trillando sotto la doccia, 1, 2, 3 pipì e caccia la goccia. Sono molto veloci. Ovviamente siamo scienziati, quindi la prima fase è osservazione e raccolta dei dati. Quindi banalmente ogni membro della famiglia dovrebbe essersi misurato nei giorni precedenti con un cronometro quanto tempo sta sotto la doccia. Mm-hmm. Mediamente 8-10 minuti, e poi ovviamente qualcuno che induce di più magari d'inverno, qualcuno che ha tanti capelli da lavare, sciacquare e riempire di balsami, e quindi a volte si va anche oltre i 15-20 minuti. La cosa che si può fare dunque, per fare una doccia ben fatta bastano 6,5-7 minuti al massimo, ovviamente sempre dipende dai capelli che sono una componente importante, però con 6-7 minuti. Allora, il primo esperimento, laddove tutta la famiglia ha un po' sforato i suoi tempi e quindi ha consumato più acqua del necessario, è comprarsi da lasciare in bagno uno di quei bellissimi sveglie da cucina che servono per misurare il tempo di cottura della pasta, per esempio. Sì. Metterlo in bagno e ciascuno se lo posiziona a 6 minuti, sapendo che quando trilla e lui è sotto la doccia deve avvicinarsi al finale, sciacquarsi e uscire, perché il suo tempo è finito, e questo significa consumare meno acqua. Ok, quindi non deve uscire così com'è allo squillo della sveglia. Infatti io lo dico, mettetevelo a 6 minuti, così sapete che poi avete un minuto e mezzo di uscita tranquilla, finendo di sciacquarvi. Okay. E aver finito la doccia come si deve. L'altro è 1, 2, 3 pipì. Allora, anche qui ogni famiglia dovrebbe andare a misurare quanta acqua ci sta nello sciacquone del water. Mm-hmm. Nelle vecchie vaschette di una volta erano anche 8-9 litri. Se io faccio pipì e misuro la mia pipì e un bicchiere, allora servono 9 litri di acqua buona, pulita, perfetta per bere, per mandare via un bicchiere di pipì, che peraltro spesso è anche assolutamente sana la pipì, non è nulla di particolarmente pericoloso, no, troppo. Quindi se io ho una vaschetta vecchio tipo, posso alzare il coperchio, lasciar cadere sul fondo 3-4 bottiglie o anche 5 da mezzo litro chiuse, in modo che vanno a fondo, occupano volume, e ogni volta che scarico e quindi successivamente ricarico non ho consumato gli 8 litri o i 7 litri, ma ne ho consumato 2 in meno. Se invece posso montare la vaschetta a doppio pulsante, che ci sono tranquillamente in vendita, è il massimo, per cui roba sporca e puzzolente, pulsante grande, un bicchiere di pipì, pulsante piccolo. Se invece la cosa migliore che consiglio ancora di fare è quello di mettere semplicemente una manetta, un interruttore, un rubinetto che fa scendere nel water esattamente la quantità d'acqua che serve per pulire quello che io in qualche modo nel water ci ho lasciato. Insomma, tre consigli molto pratici per ridurre il consumo di acqua. Il terzo esperimento? Il terzo esperimento calcio alla goccia è quello di ovviamente chiudere bene i rubinetti, ma soprattutto montare i riduttori di flusso, perché quando l'acqua è piena, cioè quando diciamo sgorga a sezione intera, chiaramente ho tanta acqua che non mi serve, perché metà dell'acqua la sto sprecando perché non mi serve per sciacquare via il sapone o sciacquarmi la bocca dello spazzolino. Con il riduttore di flusso io riesco a risparmiare anche 15-18 litri d'acqua al giorno, e quindi è un risparmio. Ovviamente il riduttore è un oggetto che può essere comprato banalmente in ferramenta per un paio di euro, e con una normalissima pinza a becco di pappagallo montato, anche lì coinvolge tutta la famiglia, perché così ci rendiamo conto che un piccolo gesto diventa un grande aiuto per la terra. In ultimo, uscendo dal bagno ma andando in cucina, l'ultimo consiglio è quello di non buttare via l'acqua della pasta quando la scolo, sì, lasciarla raffreddare e usarla per innaffiare i fiori del balcone. Ah, perché okay, fredda è un ottimo aiuto alla crescita del fiore, perché contiene dell'amido, ovviamente alternata con l'acqua normale, permette dei fiori decisamente più rigogliosi, e avete risparmiato dell'acqua, perché quei 4-5 litri che erano nella pentola altrimenti sarebbero scappati via. Questi sono i consigli di Andrea Vico. Ciao Andrea, grazie, alla prossima. Ciao, presto. Ciao a tutti. Adesso ci fermiamo, una filastrocca, il traffico e poi ancora qua con Terra in Vista. L'acqua. Acqua pura di sorgiva, chi ti tocca ti sente viva. Chi ti porta via col secchio, porta il cielo in uno specchio. Beve luce chi ti beve, eri nuvola, eri neve, eri canto di fontana, eri squillo di campana, sei la gioia del giardino, sei la forza del mulino, pellegrina affaccendata, tornerai dove sei nata. Terra in Vista. Ultima tappa per oggi del nostro viaggio di Terra in Vista. L'acqua è la parola che stiamo cercando di spiegare. Ogni puntata una parola diversa, tutte parole ovviamente legate all'Expo, e queste parole cerchiamo di raccontarle attraverso le domande dei più piccoli, tipo questa. Come si fa a trovare l'acqua? Ti sorprendono, no? Perché ti chiedono le cose più dirette, apparentemente banali, perché loro vanno subito al punto. Certo, si parla tanto di acqua, del bisogno di acqua, dell'acqua da non sprecare, però come si fa a trovare? E la risposta la chiediamo a un esperto in materia. Diamo il benvenuto a Pietro Laureano, architetto ed esperto per l'UNESCO proprio per le zone aride. Ciao Pietro, benvenuto a Terra in Vista. Ciao. Ciao, buongiorno, grazie. Trovare l'acqua è una sfida complicata? Certamente, è una domanda importante, perché è vero, non è che l'acqua esce dal rubinetto perché deve uscire, c'è qualcuno che ha lavorato tanto per farla arrivare, mm-hmm, e l'acqua se ne consuma sempre di più, purtroppo siamo sempre di più sul pianeta e l'acqua viene utilizzata anche in agricoltura, in industria, e quindi ottenere l'acqua è veramente importante, è una domanda fondamentale. Ecco, andiamo a capire appunto come si fa a trovare l'acqua, perché ovviamente il pianeta è ben differenziato, quindi credo ci sia anche proprio diversità di tecniche a seconda delle zone del mondo. Sì, l'acqua l'abbiamo nel nostro pianeta, perché se no noi non ci saremmo. L'acqua è la premessa per la vita di tutti gli organismi sul pianeta, però è distribuita in modo diverso a seconda dei climi, a seconda le situazioni, e poi stiamo parlando evidentemente di acqua bevibile, perché poi c'è l'acqua dei mari che è tantissima, ma qui si parla di acqua che si possa bere, di acqua potabile. Ecco, nelle zone temperate, nei nostri climi, l'acqua esiste in tre diverse situazioni, diciamo, c'è l'acqua del cielo, l'acqua di pioggia, l'acqua che cade con la pioggia, è tanta, è tantissima, purtroppo noi non la utilizziamo tanto, non la raccogliamo, la disperdiamo. Poi c'è l'acqua di superficie, quella di fiumi, quella dei laghi, quindi quella che scorre sui pendii delle montagne. Le montagne sono state per i popoli antichi il più grande segnale di possibilità di trovare acqua. Si andava verso le montagne perché sulle pendici poi si trovava l'acqua che scorreva, no? Il vapore acqueo si condensa salendo sulla sommità delle montagne, piove, ruscella verso valle ed ecco che ci sono corsi e sorgenti. E poi c'è l'altra riserva d'acqua, che forse è la più importante, perché è quella che ci dà acqua in genere potabile e bevibile, che è l'acqua sotterranea, quindi l'acqua del ciclo sotterraneo che riaffiora per motivi geologici in alcuni punti, che si può ritrovare scavando, facendo i pozzi. Ecco, quindi questi sono i tre sistemi fondamentali per trovare l'acqua nelle zone umide, quindi captando l'acqua di pioggia, facendo dei bacini di raccolta dell'acqua di pioggia, oppure creando degli sbarramenti e delle prese d'acqua sui fiumi, sulle acque superficiali, oppure scavando e andando in profondità per le acque sotterranee. Senti, ma noi sappiamo che ci sono popoli anche molto antichi che sono stati capaci di sopravvivere in zone impensabili, con una quantità di acqua apparentemente bassissima, nei deserti, nelle steppe. Lì come facevano a trovare l'acqua? Certo, la domanda più difficile è questa: come facciamo nei deserti dove queste tre forme di presenza dell'acqua non ci sono? Allora lì dobbiamo considerare il fatto che in realtà l'acqua è sempre presente, noi siamo avvolti da una pellicola d'acqua, l'atmosfera in realtà è acqua, è fatta di vapore acqueo, e quindi c'è sempre una leggera pellicola di acqua intorno a tutto il pianeta e intorno a noi. Ecco, questa acqua atmosferica può essere una risorsa importante, lo è stato nell'antichità e ancora oggi ci sono nuovi metodi per riuscire a captare l'acqua dall'atmosfera. E quindi nelle situazioni desertiche, dove appunto non ci sono acque superficiali, ci sono spesso acque sotterranee da captare, ma c'è comunque questa umidità, questa brina che si condensa durante la notte, le escursioni termiche sono altissime, cioè durante la notte la temperatura scende moltissimo e quando la temperatura scende il vapore si condensa, quindi si possono trovare tracce di acqua su ammassi di pietra. Questi ammassi di pietra vengono realizzati appositamente perché poi questa rugiada si infiltra tra i sassi e noi durante il giorno possiamo trovare sotto questi ammassi di pietra acqua bevibile. Si arriva a tecniche ancora più elaborate rispetto a questa, cioè ci sono quelle tecniche che vengono chiamate gallerie drenanti, gallerie filtranti, no? In Iran Kanat, diffuse anche in Nord Africa col nome di Foggarà. Sono lunghi e lunghi tunnel sotterranei che captano l'acqua dal sottosuolo. Guardate bene, non sono dei pozzi, non si va in profondità, no? Si va sotto la superficie. Okay. E questi tunnel hanno poi come dei condotti verticali che funzionano come dei convogliatori di acqua atmosferica, di umidità che si condensa dentro il tunnel e poi l'acqua viene portata per gravità fino al punto dove deve essere utilizzata. Ma quindi tecniche antiche che vengono utilizzate anche oggi? Sì. Tecniche antiche che anzi trovano oggi, diciamo, necessità, perché voi pensate che noi abbiamo utilizzato nei nostri climi temperati molto spesso i pozzi, cioè noi schiamiamo un pozzo per andare a trovare l'acqua in profondità. Però oggi, col fatto che stiamo inquinando tutte le situazioni superficiali, se noi schiaviamo un pozzo, rischiamo, facendo il pozzo, proprio di andare a inquinare noi stessi l'acqua profonda, che è quella più pura, cioè mettiamo in comunicazione le acque superficiali sporche con quelle profonde. In più, quando assorbiamo l'acqua da un pozzo, agisce come la cannuccia dentro una bibita con del ghiaccio dentro. Aspiriamo quella cannuccia e tutto il ghiaccio a poco si prosciuga, perché aspiriamo e togliamo l'acqua in superficie, quindi rischiamo di eliminare l'acqua sulle parti superficiali dell'agricoltura. Altro problema dei pozzi è che quando togliamo l'acqua dal sottosuolo, questo accade per esempio in Puglia, da noi moltissimo, e togliamo l'acqua dal sottosuolo, dalle falde profonde, che succede? L'acqua di mare che poi entra, perché l'acqua nel sottosuolo trova situazioni libere, entra e dai pozzi poi arriva acqua salata e questo provoca sterilizzazione dei suoli e desertificazioni. Ricordiamo appunto, quando dobbiamo trovare l'acqua, dobbiamo trovare dell'acqua bevibile, e questo è il problema grande, perché la civiltà romana costruì quei grandissimi acquedotti, perché pur collocando le città vicino ai fiumi, come Roma lo era, sul Tevere, quindi c'era l'acqua del fiume, in realtà il problema vero è dare agli abitanti dell'acqua potabile, quindi i grandi acquedotti servivano a portare poi dalle montagne, dalle colline circostanti dell'acqua potabile, anche se il fiume era lì vicino. Ma in estrema sintesi, perché noi consumiamo su questo pianeta in questo momento così tanta acqua? È tutto docce, bagni, o ci sono altre attività che succhiano tantissima? Consumiamo l'acqua per l'agricoltura, tantissima, anche questo è un errore enorme, consumiamo l'acqua potabile per l'agricoltura, li avete visti a volte gli impianti di irrigazione che irrigano anche mentre piove, perché sono automatici e irrigano con acqua potabile, prosciughiamo i fiumi per dare acqua all'agricoltura, spesso non ne ha bisogno. Abbiamo scelto un'agricoltura che a volte non è adatta a determinati climi, a determinati ambienti. Dovremmo riconvertire l'agricoltura con piante che hanno bisogno di meno acqua, e questo è possibile. E abbiamo fatto così, abbiamo delle pratiche di spreco, il nostro modello economico è basato sullo spreco, e questo è il punto. Ecco, dobbiamo cambiare mentalità e capire come si faceva una volta, che tutto si può riciclare. piacere. Grazie davvero a Pietro Laureano per averci fatto, insomma, questa bella e importante fotografia sull'acqua. Grazie, ciao Pietro, buon lavoro. Grazie, ciao. Ciao. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Sultanato del Brunei. Il Niru è il crivello tradizionalmente utilizzato nel Sultanato del Brunei per separare i chicchi di riso dalla pula. Questo metodo fu ideato dalle civiltà antiche ed è stato in seguito adottato dai lavoratori delle risaie di tutto il mondo. Il procedimento è semplice. Si mette il riso nel niru e lo si scuote facendo in modo che si alzi dal contenitore. Mentre viene lanciato per aria, il riso perde la pula più leggera, mentre i chicchi più pesanti rimangono nel niru. Si tratta di un'operazione che richiede grande abilità e tecnica. Il niru è di bambù e viene intrecciato in varie forme e oggi è venduto nei mercati anche come semplice oggetto ornamentale o contenitore da cucina. E queste sono alcune delle cose che abbiamo imparato oggi. Che l'acqua non finisce mai, torna sempre in circolo, ma non è detto che possiamo berla. Che le acque sono tutte diverse, non ce n'è una uguale ad un'altra. Che un bimbo nella pancia della mamma è fatto per il 90% di acqua. Che l'acqua che sto bevendo adesso potrebbe averla bevuta anche un dinosauro. Che la doccia ideale dovrebbe durare al massimo 7 minuti, ma io non ce la farò mai. E questo è Terra in Vista, un programma scritto con Silvia Righini e Margherita Aina, Carmelo Lauricella oggi alla parte tecnica, le attività pratiche invece sono state proposte da Andrea Vico e Alessandra Falconi, la musica che state ascoltando, la sigla e la base è stata composta dai Matita, se volete conoscerli meglio, www.supermatita.org. Telmo, che dire, è stata una bella puntata anche oggi, vero? Abbiamo dissetato la mente, grazie, ci vediamo alla prossima, un'altra parola, un'altra tappa di questo viaggio su radio24.it, nelle pagine speciali di Terra in Vista potete ritrovare tutto. Ciao e grazie. Poetare d'acqua. Acqua bianca, acqua di perla, acqua sovrana. Col tuo grande valore, lascia la solitudine della montagna e perditi nel mare delle città che hanno mille occhi e mille cuori. Bacia anche la fronte di un bambino. Tu hai la sorte di portare l'aquilone del mattino alla terra dei pesci e alla guerra degli uomini. Ti prego, acqua benedetta ombra di nuvole, anche se l'avido secolo ti fa infuriare, corri leggera sulla mia mano. Non farmi mai naufragare.